giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Oggi sciopero generale, si ferma il pubblico impiego, la protesta indetta da CGIL e UIL contro la manovra finanziaria del governo riguarda in Friuli Venezia Giulia 100.000 lavoratori, tra i settori interessati scuole, sanità, poste. Per il trasporto pubblico locale, bus e treni, lo sciopero termina alle 13, assicurate le fasce di garanzia. Vertenza Varsila, il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha convocato a Roma il prossimo giovedì 30 novembre il tavolo di crisi. L'incontro avviene dopo quasi due mesi di attesa rispetto alla previsione di fine settembre. Nel terzo trimestre del 2023 la manifattura in provincia di Udine ha registrato una contrazione solo in parte riferibile alle dinamiche della pausa estiva. Sul peggioramento del quadro produttivo pesano la stretta monetaria in atto e la debolezza della domanda interna ed europea. È stato trovato senza vita nelle acque del Porticciolo di Grado poco prima delle 8 di questa mattina il corpo di Tullio Troian, il gradese di 68 anni di cui non si sapeva più nulla da mercoledì sera, a scoprire il cadavere un passante che ha avvisato il 112. Le squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco di Pordenone stanno scandagliando da questa mattina il lago di Barcis alla ricerca di tracce dei due ragazzi veneti Giulia Cecchettin e l'ex fidanzato Filippo Turetta, scomparsi da qualche giorno. Continua a suscitare polemiche anche di stampo politico la chiusura temporanea del punto nascite dell'ospedale di San Vito al Tagliamento, annunciata dal direttore generale della struttura. Questa mattina una manifestazione di protesta davanti all'ospedale. Sarà inaugurata questa sera la 20ª edizione del premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta, una 3 giorni di approfondimenti dedicati al dramma delle guerre, le cui prime vittime sono i bambini. Lignano ospita fino a domenica i campionati mondiali di nuoto, pinnato ed apnea per diversamente abili, tra i 70 atleti anche la spilimberghese Katia Ehre, già bronzo a Tokyo nel paraciclismo. Le 12:32 minuti, ancora un buongiorno da Giorgio Verzi e Francesca Terranova per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 17 novembre. Un'edizione che apriamo ancora con lo sciopero generale. Si ferma oggi il pubblico impiego, la protesta, lo ricordiamo, indetta da CGIL e UIL contro la manovra finanziaria del governo e riguarda nel Friuli Venezia Giulia 100.000 lavoratori, tra i settori interessati scuole, sanità, poste. Per il trasporto pubblico locale, bus e treni, lo sciopero terminerà tra poco alle 13, assicurate comunque le fasce di garanzia. Bandiere rosse e azzurre in piazza. A Udine 4 i presidi con manifestazioni per lo sciopero indetto da CGIL e UIL. Per i dati sull'adesione bisognerà attendere qualche ora. Nella scuola, per esempio, ogni istituto manda comunicazione al Ministero. Segnalati disservizi e qualche chiusura di plesso. CGIL in corteo con universitari e ragazzi delle superiori. Massimo Gargiulo, segretario regionale della CGIL Scuola. Chiediamo alla politica un cambio di passo, la nostra presenza con gli studenti non è casuale, per cui sia nei riguardi dell'accesso al diritto allo studio, ma anche nella tutela e garanzia dei lavoratori dell'intero comparto dell'istruzione e ricerca sotto attacco. Oggi è la giornata internazionale degli studenti, propongono una piattaforma per cambiare la scuola scritta dal basso in 4 punti. Beatrice Bertossi, dell'Unione degli Studenti. Rappresentanza realmente rappresentativa, percorsi PCTO e IFP che siano sicuri e tutelanti e che non siano subordinati agli interessi di aziende private, le scuole transfemministe e la tutela del benessere psicologico all'interno dei nostri istituti e infine un'edilizia scolastica sicura e che favorisca la partecipazione studentesca. Nei trasporti le prime stime danno un'adesione intorno al 50%. Patrizia Zambon di UIL Trasporti Udine. È chiaro che la riduzione a 4 ore dalle 9 alle 13, quando comunque nel mondo dei trasporti ci sono fasce di garanzia che tutelano il pendolare e tutelano il lavoratore, ci mette un pochino in difficoltà. Picchetto congiunto UIL Nursind davanti alla sede della regione, dove una delegazione ha incontrato il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin. Stefano Bressan della UIL FPL FVG. Questa legge di bilancio risulta quasi un assassinio alla sanità pubblica. È inaccettabile un taglio dei diritti acquisiti, quindi delle pensioni. Davanti all'ospedale, la voce dei pensionati della CGIL. Natalino Giacomini, segretario provinciale della CGIL per Udine. A questo governo gli gridiamo in faccia in maniera forte: hai praticamente tradito promesse che avevi fatto sul superamento della Fornero. Oggi l'hai peggiorata. Cioè i pensionati, veramente i cartelli quando dicono vorremmo andare in pensione da vivi, è vero. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. D'Ertenza Varsila, il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha convocato a Roma il prossimo giovedì 30 novembre il tavolo di crisi. L'incontro avviene dopo quasi due mesi d'attesa rispetto alla previsione di fine settembre e oltre un anno dalla grande marcia di oltre 12.000 triestini sfilati per le vie di Trieste a difesa dei lavoratori dello stabilimento. Prossima tappa il 30 novembre, quando a Roma al Ministero delle Imprese del Made in Italy si tornerà a parlare di Varsila con la presentazione di un piano industriale. L'annuncio, dato dall'assessore al lavoro Alessia Rosolene, ha permesso di fissare una data e dare un argine all'incertezza che comincia a serpeggiare tra i 300 lavoratori in solidarietà fino al 31 dicembre. Come spiegano i sindacati, su quello che succederà dopo, dal 1 gennaio in poi, siamo ancora al buio. Dopo il tavolo di fine luglio poco è cambiato, i nomi di eventuali compratori che circolano, Mitsubishi e Ansaldo, sono sempre gli stessi, ma ricorda Michele Piga della FIOM CGL, si tratta solo di voci senza indicazioni concrete, al momento quello che manca, continua, è un piano reale per mantenere il sistema produttivo e il rapporto con l'indotto. Antonio Rodà della UIL fa notare che i tempi si sono dilatati in modo preoccupante, siamo consapevoli che non avremo la soluzione entro il 2023, mentre i termini fanno inquietare i lavoratori. Preoccupazione che spiega Alessandro Gavagnin della FILM CISL, si cercherà di portare all'attenzione di regione e prefettura in un incontro richiesto prima dell'annuncio del 30 novembre per sollecitare un'attenzione maggiore da parte delle istituzioni. Da parte sua, Alessia Rosolena ha assicurato che ogni lavoratore è fondamentale per la nostra comunità, ma aggiunge che la questione è più ampia e riguarda la reindustrializzazione del sito, che deve essere strategica per tutta la filiera, per Trieste, per la regione, ma anche a livello nazionale. Il tavolo allora è il luogo dove discutere di queste cose, spiega, bisogna aspettare e capire la portata del piano e vedere se emergono eventualmente anche altri soggetti interessati. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel terzo trimestre del 2023 la manifattura in provincia di Udine ha registrato una contrazione solo in parte riferibile alle dinamiche della pausa estiva. Sul peggioramento del quadro produttivo pesano la stretta monetaria in atto e la debolezza della domanda interna ed europea. E quanto evidenzia Confindustria Udine commentando gli ultimi dati del suo ufficio studi resi noti oggi. Nel dettaglio, la produzione industriale in provincia di Udine è scesa del 7,7% rispetto allo stesso periodo del 2022 e del 9% rispetto ai tre mesi precedenti. Con il calo della produzione, l'utilizzo degli impianti produttivi scende al 73,5% dal 78% del primo semestre. Tra gli altri dati, l'ulteriore deterioramento delle aspettative delle imprese e gli ordinativi, con un calo su base tendenziale rispettivamente dell'8% e del 9,7%. Nel confronto con il secondo trimestre dell'anno, il calo dell'attività produttiva industriale al momento, riferisce ancora Confindustria Udine, non produce effetti sull'occupazione, che rimane ampiamente stabile. La cronaca: è stato trovato senza vita nelle acque del porticciolo di Grado poco prima delle 8 di questa mattina il corpo di Tullio Troian, gradese di 68 anni, di cui non si sapeva più nulla da mercoledì sera. A scoprire il cadavere un passante che ha avvisato il 118. Allertata immediatamente la capitaneria di porto, ha recuperato il cadavere nel molo Torpediniere. La procuratrice capo facente funzioni del Tribunale di Gorizia, Ilara Iozzi, ha disposto l'ispezione cadaverica eseguita poi dal medico legale Davide Radaelli. Un attacco cardiaco la causa del decesso. Troian soffriva di patologie cardiache. Fa sapere il comandante, il tenente di vascello dell'ufficio circondariale marittimo di Grado, Domenico Castro, che si è occupato in prima persona di recuperare la salma. Tullio Troian era notissimo nell'isola, era stato giornalista e sindacalista attivo nel mondo del volontariato, era anche presidente dell'associazione Anteas per l'attività di animazione per gli anziani e dava il suo contributo anche all'associazione dei portatori della Madonna di Barbana. Infaticabile, dialogava spesso anche con noi della TGR e anche con i programmisti di questa sede RAI. Recentemente era diventato ipovedente. Alla moglie e al figlio le condoglianze di tutta la redazione. Le squadre di sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Pordenone stanno scandagliando da questa mattina il lago di Barcis alla ricerca di tracce dei due ragazzi veneti, Giulia Cecchettin e l'ex fidanzato Filippo Turetta, scomparsi da sabato scorso. Da quanto si apprende, la località non è stata scelta in base a elementi precisi, ma perché si trova lungo la direttrice che l'auto ha certamente seguito nella notte tra sabato e domenica. I dispositivi di lettura targhe l'hanno infatti immortalata lungo la strada pedemontana a Caneva, quindi a Polcenigo e successivamente, in maniera del tutto sorprendente, nella stazione turistica del Piancavallo. Considerato che la fotografia successiva è stata scattata all'uscita delle gallerie tra Erto e Casso e Longarone, non lontano dalla diga del Vajont, le ricerche si concentrano appunto sul lago di Barcis, località dove il veicolo deve passare obbligatoriamente, non essendoci strade alternative. Sempre per la cronaca, una donna è stata soccorsa questa mattina dal personale medico infermieristico per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale che si è verificato lungo la A34 nel tratto compreso tra Villesse e Gradisca di Sonzo, direzione Gradisca di Sonzo. Per causa ancora in corso di accertamento da parte del personale della polizia stradale, la donna ha perso il controllo della vettura che stava conducendo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso che ha preso in carico la donna, che è stata trasportata in volo all'ospedale in condizioni serie. Continua a suscitare polemiche anche di stampo politico la chiusura temporanea del punto nascite dell'ospedale di San Vito al Tagliamento, annunciata dal direttore generale della struttura questa mattina, una manifestazione di protesta davanti all'ospedale. Parte la mobilitazione contro la chiusura del punto nascita di San Vito al Tagliamento con una manifestazione davanti all'ospedale, alla quale hanno preso parte diverse realtà, dai comitati alle associazioni e alle organizzazioni sindacali. Noi difendiamo il punto nascita, Tonutti dimettiti, lo striscione esposto davanti all'ingresso, per contestare il direttore generale che ha deciso la sospensione del servizio perché il numero di parti all'anno non sarebbe sufficiente a garantirne la sicurezza. Adelina Zanella, Comitato del San Vitese Salute Pubblica Bene Comune. Il problema non è le poche nascite all'anno, perché noi stavamo arrivando con le 500 nascite minimo previste dalla norma. È vero, se non ci sono abbastanza medici è difficile, soprattutto per i lavoratori del reparto, fare il lavoro bene, però la pericolosità secondo noi viene dalla gestione di questa direzione generale, che non ha fatto niente per sostenere un suo punto nascita. Tra le ipotesi, quella ventilata dall'ex sindaco Antonio Di Bisceglie di In Buona Salute, di un ricorso contro il decreto. A rappresentare la posizione dell'amministrazione il sindaco Alberto Bernava. Noi chiediamo e proponiamo, come anche come sindaci di ambito, delle soluzioni, le vogliamo proporre. A Pordenone per neanche 1000 parti ci sono 16 ginecologi e a San Vito per oltre 500 parti, uno dei pochi punti nascita in crescita oltretutto, e solo 3 compensati da questi gettonisti. Quindi siamo di fronte a una iniquità che l'ASFO deve riequilibrare. Era possibile scongiurare questa chiusura con delle scelte che non sono state fatte. Ma non c'è solamente il punto nascita fra le preoccupazioni per la sanità del San Vitese, che saranno affrontati in un'assemblea pubblica il 22 novembre. Daniele Roviani, Spi CGL. Si continua a sostenere la sanità privata, non rendendosi conto che se i medici del pubblico escono dal pubblico, qualche volta anche gli infermieri, noi abbiamo poco da telefonare al CUP per chiedere una visita. San Vito al Tagliamento, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Fa tappa Udine in Piazza del Duomo il grande camion della campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare promosso dalla Fondazione dei Cardiologi Ospedalieri per il Tuo Cuore con il patrocinio RAI. Da oggi fino a domenica offrirà a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo e gratuito, con l'obiettivo di ridurre le morti cardiache, che restano ancora oggi la prima causa di morte nel nostro paese. Sono le principali cause di mortalità le malattie cardiovascolari, dove la conoscenza è il primo ingrediente per la protezione del cuore e delle arterie, e deve andare di pari passo con la coscienza che un sano stile di vita e l'adesione alle prescrizioni del medico sono fondamentali per limitare i rischi di infarti, ictus e aritmie. A Udine ritorna la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare Tractur Banca del Cuore 2023, che fa parte del progetto Banca del Cuore, una 3 giorni dedicata alla prevenzione con screening cardiologici gratuiti, e la città di Udine ha risposto con grande partecipazione all'evento. Claudio Fresco, primario di cardiologia, azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Udine ha una lunghissima storia sulla prevenzione, no? Aveva cominciato professor Feruglio, col progetto Martignacco, e poi anche il professor Maseri, naturalmente, che è stato per molti anni presidente della fondazione che organizza questo tour nelle città italiane, e per questo è ancora più importante cercare di prevenirle e evitare che poi la gente debba correre in ospedale con l'infarto, con l'ictus. 44 prenotazioni al giorno, oltre a quelle persone che non sono riuscite a prenotarsi, una media di circa 10 pazienti all'ora all'interno del rimorchio del TRAC, dove un'accogliente sala d'attesa ospita diversi pazienti che si sono accomodati in attesa del proprio turno per sottoporsi allo screening di 2 cardiologi e 2 infermiere. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E alle 12.45 minuti e 30 secondi diamo uno sguardo alla situazione del meteo. Il cielo da sereno a poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate poco fa. A Trieste e Udine 14 gradi, a Gorizia 13 gradi e mezzo, a Pordenone 13 gradi, a Tolmezzo 13 gradi e 5 decimi, a Tarvisio e Forni di Sopra 9 gradi e 5 decimi, a Piancavallo 8 gradi e 5 decimi, a Sappada 4 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 3 gradi, sul Monte Lussari 0 gradi e passando alla costa a Grado 12 gradi, a Lignano 9. E per sapere che cosa ci aspetta nel fine settimana dal punto di vista meteo sentiamo il previsore dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, Francesco Sioni. Nel corso della giornata avremo l'ingresso da nord di correnti più secche in discesa dalle Alpi e quindi avremo un deciso miglioramento durante il corso della giornata con ampi rasserenamenti. Sulla zona montana soffierà vento moderato da nord a nord-ovest, appunto in discesa dalle Alpi, con qualche raffica che potrà essere anche sostenuta in Carnia. Domani con questa aria secca avremo sostanzialmente una buona giornata, su tutte le zone cielo da sereno a poco nuvoloso e ancora venti deboli o moderati da nord in discesa dalle Alpi, ma comunque più deboli rispetto alla giornata di oggi, minime domani mattina sulla pianura che potrebbero raggiungere o essere vicini ai 0 gradi. Per quanto riguarda domenica, una prima parte della giornata vedrà cielo nuvoloso o variabile, dal pomeriggio invece un deciso miglioramento con ampie schiarite su tutte le zone. Con l'avvicinamento di un anticiclone che porta aria calda in quota, avremo anche inversione termica in montagna e zero termico in veloce risalita da 1700 fino a 3000 metri circa. Riguardo le temperature, siamo in linea con la media stagionale? Nel fine settimana, proprio per la presenza appunto di cielo in prevalenza sereno, avremo una diminuzione delle temperature che saranno appunto leggermente sotto la media del periodo. Sarà inaugurata questa sera la 20ª edizione del Premio Giornalistico Internazionale Marco Lucchetta, una 3 giorni di approfondimenti dedicati al dramma delle guerre, le cui prime vittime sono i bambini. Se ne è parlato questa mattina nella nostra trasmissione Buongiorno Regione con la presidente della Fondazione Lucchetta Ota D'Angelo Crovatin, Daniela Schifani Corsini Lucchetta. Sentiamo. Nei corridoi spettrali i segni delle detonazioni. Le stanze vuote, le luci spente fanno pensare ad una struttura abbandonata. Ma basta scendere 2 rampe di scale e andare nei locali delle caldaie per trovare il futuro dell'Ucraina. Le immagini arrivano dall'ospedale di Zhytomyr in Ucraina e la voce è quella di Vincenzo Frenda del TG2, vincitore del premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta per le TV News, un premio che in questi 20 anni non si è mai stancato a sostenere la sensibilizzazione sull'infanzia violata e minacciata in tutto il mondo, anche nei contesti dove i riflettori mediatici si sono spenti. Avremo sicuramente l'Ucraina, come avete fatto vedere, l'Afghanistan, avremo i bambini figli di prigioniere dell'ISIS che vengono tenute prigioniere insieme alle loro mamme nelle prigioni, però tratteremo anche di temi che ci riguardano un po' più da vicino, perché parleremo anche dell'abuso di internet, di quello che può provocare nelle menti dei nostri figli e parleremo anche appunto di disagio giovanile, di quello che può coinvolgere le nostre generazioni. Il premio è un riconoscimento importante per ribadire che in un mondo in cui siamo invasi da un flusso velocissimo e spesso incontrollato di notizie, abbiamo bisogno di un giornalismo fatto da professionisti che contrasti la propaganda e la disinformazione. Viviamo in un mondo che è bombardato dalle informazioni, è difficile capire cos'è vero, cos'è falso. Credo che soltanto le persone che vivono direttamente questi conflitti e che quindi sulla loro pelle, diciamo, osservano tutto quello che accade e ce lo raccontano, e solo loro veramente hanno il grande merito di poterci portare alla verità. Trieste, Vaciutti, GR, Friuli Venezia Giulia. Apre oggi Idea Natale, la fiera del regalo a Udine, con 150 espositori in mostra fino a lunedì 20 novembre. Vengono dal Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia. L'ingresso costa 3 euro ed è gratis per i minori di 12 anni. Lignano ospita fino a domenica i campionati mondiali di nuoto pinnato e apnea per diversamente abili. Sono 70 gli atleti, tra questi anche la spilimberghese Katia Aere, già pronzo a Tokyo nel paraciclismo. Lignano con le sue piscine olimpiche di Bella Italia Village passeranno alla storia dell'inclusione per aver ospitato il primo campionato del mondo di apnea e nuoto pinnato per diversamente abili sotto l'egida dell'ACMAS, la Confederazione Mondiale delle Attività Subacquee, della quale fa parte anche l'italiana IPSAS. 70 gli atleti in gara nelle due discipline, nuoto pinnato e apnea, che alle 10 hanno assistito alla cerimonia inaugurale. La mattinata dedicata agli allenamenti, mentre le gare vere e proprie per gli atleti che provengono da Europa, Africa, Asia e Oceania nel pomeriggio, ancora domani e poi domenica. I partecipanti ai campionati mondiali di Lignano raccoglieranno punti importanti per partecipare anche ai World Games in Cina nel 2025. Lignano, Nava Cioxi, GR, Friuli Venezia Giulia. La pagina della cultura, un romanzo che parla di confini e muri come quello di Berlino. Il titolo Scrivimi dal confine, in cui l'autore è Luca Saltini, responsabile dell'attività culturale della Biblioteca Cantonale di Lugano in Svizzera, edito da PM, verrà presentato per la prima volta in regione all'Abbazia di Rosazzo alle 18 nella rassegna I colloqui dell'abbazia, il viaggio della carta geografica di Livio Felluga, curata e condotta da Elda Felluga e Margherita Reguitti. Al Fake News Festival in corso Udine, che si concluderà domenica, si riflette sugli strumenti che abbiamo a disposizione per riconoscere le vere notizie che ci arrivano dagli scenari di guerra e per smascherare anche i miliardi di fake news legati a temi di stretta attualità. Se ne è parlato questa mattina a Buongiorno Regione. Per 3 italiani su 4 è sempre più difficile riconoscere una fake news. L'83,4% di noi si è imbattuto, almeno in una bufala sulla pandemia, il 66% in una notizia falsa sulla guerra. Sono informazioni emerse dal Fake News Festival, il primo e unico festival in Italia dedicato a questo tema, in corso a Udine da martedì. 16 appuntamenti, 50 ospiti, 8 location, 3 serate al teatro e una al cinema per riflettere sulla disinformazione. Gabriele Franco, direttore del festival. Che purtroppo non è un monolite, ma deve essere affrontato parlando di intelligenza artificiale, femminismo, fake news legate alla dimensione aerospaziale, giornalismo, giustizia. I temi sono tanti, tra cui anche quello della guerra, nel conflitto tra Israele e Hamas. A partire dall'attacco del 7 ottobre sono circolate 52 narrazioni false sul conflitto che sono state diffuse da più di 200 siti. Questo ci dimostra come le fake news ormai siano diventate delle armi di disinformazione di massa e l'utilizzo di nuovi sistemi come l'intelligenza artificiale e la grande diffusione dei social network sta contribuendo alla massificazione di questo problema. Un festival che non vuole dare le risposte ai temi proposti, ma ha l'obiettivo di fornire gli strumenti per smascherare le bufale e difendersi dalle fake news. Verificare le fonti quando vediamo una notizia o un'immagine molto particolare, provare ad esempio a fare una ricerca, una controricerca, un fact checking si dice, cioè rimetterla sul motore di ricerca e vedere se quella notizia è stata rilanciata da qualche testata autorevole. Un'altra cosa che si può fare è soprattutto quella di controllare magari il link su cui la notizia è lanciata, se è un link reale oppure se è fittizio. Oppure, e soprattutto, questo sicuramente è il consiglio più importante, è quello di cercare di disinnescare le proprie emozioni. Quindi è meglio sempre contare fino a 10 prima di diffondere e ricondividere questa notizia. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli eventi del piccolo Festival dell'Animazione, la rassegna dedicata all'illustrazione e all'animazione d'autore, sostenuta dalla Regione, da Turismo FVG e dal Comune di San Vito al Tagliamento, organizzata dall'Associazione Viva Comics con la direzione artistica di Paola Bistrot. Si comincia oggi alle 17 fino alle 22.30. Inaugura questa sera alle 18 la mostra fotografica Trasformazioni, per vedere come è cambiato il paesaggio friulano dall'Ottocento a oggi, visitabile nella chiesa di San Francesco a Udine fino all'8 gennaio. E con questa notizia chiudiamo il nostro appuntamento con il giornale radio, che è stato redatto e condotto da Francesca Terranova e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis e Bruno Montevecchi. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.